don't know whether I made this plain as to why we say he is self-enlightened. E non so se vi ho spiegato il motivo per cui diciamo che lui è il Buddha, è auto, pienamente auto-illuminato. There was seemingly no such teachings at the time. Perché al tempo del Buddha non pare che non ci fossero questo tipo di insegnamenti. And it would seem that at that deepest point of despair he had this inspiration coming from his childhood. E quindi pare che in questo momento di profonda disperazione lui abbia avuto questa intuizione, questo ricordo che gli veniva proprio dalla sua infanzia. It's also good to remind ourselves that he did not invent the path. E quindi è bene anche ricordarsi però che lui non ha inventato il sentiero. He rediscovered it in his words. L'ha riscoperto, e questo secondo anche le sue stesse parole. He refers to it sometimes as the ancient path. E a volte lui si riferisce a questo sentiero come al sentiero antico. Yesterday I also I forgot to include how to deal with boredom. Ieri sera mi sono dimenticato di parlare anche di includere come gestire la noia. So remember that boredom is the product of unrequited, ungratified excitement. Allora ricordate che la noia può essere considerata una eccitazione non gratificata, forma di eccitazione non gratificata. So you know, if we keep having if we keep seeing the same DVD, then it becomes boring, isn't it? Perché se continuiamo, per esempio, a vedere lo stesso DVD, dopo un po' diventa noioso. So there's always that seeking for something new, you see. C'è sempre questa ricerca di qualcosa di nuovo. So when boredom arises, that's your object of meditation, you see. Quando sorge la noia, questo diventa il vostro oggetto di meditazione. The meditator says, oh, that's interesting, boredom. Il meditante dice, ah, questo sì che è interessante, la noia. Ah, and you wait for it to pass, you see. E si aspetta che passi. Now, every time a little bit of boredom passes, a little bit of stored up, a little bit of the desire for excitement is also destroyed. Ogni volta che questa noia passa, viene distrutta anche quel po' di desiderio, di eccitazione residuo. Sì. So the more you can sit with boredom, the less you'll be seeking excitement. Quindi più riuscite a stare con la noia e meno cercherete invece questi stati di eccitazione. Especially if you make the link between the two, you see. Soprattutto se riuscite a fare questo collegamento tra i due. Scusate, nota del traduttore. Io traduco eccitazione, che in italiano forse non è così corretto. È più un'emozione, qualcosa di emozionante. Emozionante. I listened to a program on the BBC radio about boredom. Ho sentito un programma sulla radio, la BBC, proprio sulla noia. I can't remember anything of it, of course. Naturalmente non mi ricordo nulla di tutto questo programma. But I do remember that they did not link, they didn't connect boredom with this problem of a society, a consumer society that always wants to keep you excited. Ma quello che mi ricordo è che non hanno fatto questo collegamento tra la noia e questo tipo di società consumistica che è basata proprio su questa continua ricerca di qualcosa che emozioni, che ecciti. Yes. So that's what we do with boredom. We investigate it just like anything else. Ecco, quindi cosa facciamo con la noia? La investighiamo, cerchiamo di comprenderla come se fosse un qualsiasi altro oggetto. So what is the gift when boredom and excitement disappear? What's the gift? E quindi qual è il dono che riceviamo quando spariscono la noia o l'eccitazione? So have a guess. Indovinate. Qualcuno dice pace. Freedom. Contentment. Contentment, cioè l'appagamento, la soddisfazione. Yeah. To be contented is not to seek excitement. Essere appagati equivale a non cercare una forma di eccitazione. Now this is the quality of the Buddha, contentment. Ed è proprio una qualità del Buddha, questo essere soddisfatti con ciò che si ha, questa contentezza, questo appagamento. You can rate your spiritual progress by how much contentment you have. E quindi potete anche giudicare il progresso della vostra pratica sulla base di quanto siete appagati. So, this evening we want to do the brighter side of the practice. Quindi questa sera tratteremo con, diciamo, l'aspetto un pochino più positivo della pratica. Yes, più more leggero, yeah, leggero, brighter. Più luminoso. It's dealing with the what we call the five spiritual factors. Five spiritual faculties. Le cinque facoltà spirituali. And the seven factors of enlightenment. E i sette fattori di illuminazione. Ah. So for some of you it's just a way of revising it. E per alcuni di voi sarà un rifasso. And I think for some it's an introduction. E per altri sarà un'introduzione. So the five spiritual faculties are faith. Allora. Faith, concentration. Awareness, effort and wisdom. Okay. Faith, concentration. Quindi le cinque facoltà spirituali sono la fede, la concentrazione, la consapevolezza, l'energia, lo sforzo e la saggezza. La saggezza. And the seven factors of enlightenment are awareness. Invece i sette fattori di illuminazione sono. And then you have three pairs. Allora c'è la consapevolezza e poi ci sono tre coppie. Concentration and effort. La concentrazione e lo sforzo. Interest and calmness. L'interesse e la calma. And equanimity and the investigation of the Buddha's teachings. E l'equanimità e l'investigazione degli insegnamenti del Buddha. Specifically, the three characteristics of existence. E in particolare le tre caratteristiche dell'esistenza. Yeah. Okay, so we begin with faith, confidence. Quindi cominciamo con la fede o la fiducia. So remember that. We mustn't confuse this confidence or faith with belief. Ricordate che non dobbiamo confondere questa fede o fiducia con una credenza. Faith is just an attitude of confidence and trust. Perché questa fede è un atteggiamento di fiducia e di trust. Trust and fiducia e fiducia. Trust. Fiducia in se stessi, sì. Yeah, fiducia, as that. Vabbè, in italiano non c'è differenza. Trust è fidarsi di qualcuno, Sì. Belief is a statement, you see, it's an actual statement which you take to be true. Invece la credenza è un'affermazione che uno prende per vera. Even though one does not know it to be true for oneself. Anche se uno non è sicuro, diciamo, che sia vera per se stesso, cioè non l'ha verificata, diciamo. Ah. So distort our investigation. Perché questo limiterebbe o distorcerebbe la nostra investigazione. Ah. Because we'd be looking for this belief, you see. Perché staremmo cercando questa credenza. Ah, so our attitude is very open-minded and we approach it just with that basic confidence. E invece il nostro atteggiamento deve essere molto aperto, una mente aperta, e affrontiamo questa ricerca con una grande fiducia. The Buddha says that this faith grows in three ways. E il Buddha dice che questa fede cresce in tre modi. The first is that when we hear about the Dharma, we are drawn to it. There's something that seems true to us. La prima è che quando sentiamo il Dhamma, cioè gli insegnamenti del Buddha, ne siamo attratti, perché sembra una cosa che per noi è vera, ci risuona dentro. And then we begin to read about it, and we hear talks, and it becomes, and then we ourselves begin to take it as our own intellectual wealth. E poi cominciamo a leggere delle cose, ascoltiamo dei discorsi, ed è come se lo interiorizzassimo, diventasse una nostra ricchezza intellettuale. So at this point there's quite a danger for people who are intellectual. E qui questo rappresenta un pericolo per quelle persone che sono un po' intellettuali. Because they can so understand the teaching so well that they believe that they've actually experienced it. Perché ci credono così tanto a questi insegnamenti, li hanno capiti così bene che pensano di averli effettivamente sperimentati. There was a monk in the Buddha's time who was able to explain the teachings, you know, really quite wonderfully. C'era un monaco ai tempi del Buddha che riusciva a spiegare gli insegnamenti del Buddha in maniera meravigliosa. But the Buddha called him empty putila. Ma il Buddha lo chiamò putila vuoto. It was very good intellectually, but he hadn't a clue as to the experience. Perché intellettualmente era bravissimo, però rispetto all'esperienza diretta non ne sapeva nulla. So of course this is the purpose of Vipassana. Ed è questo lo scopo della Vipassana. And so then we have this wisdom that arises from direct experience. E poi abbiamo questa saggezza che sorge dall'esperienza diretta. So we wouldn't even begin this process were it not for that initial attraction. An initial confidence. Non cominceremmo neanche tutto questo processo se non fosse per questa attrazione iniziale, questa fiducia. Now, when it comes to our experience in meditation, often our faith is tested. Per quanto riguarda la nostra esperienza nella meditazione, a volte viene messa a dura prova la nostra fede. And that lack of faith manifests in doubt. E questa mancanza di fede si manifesta attraverso il dubbio. So if we have some idea about what we want to attain, and then, you know, nothing much is happening over the years. Quindi magari abbiamo un'idea di ciò che vogliamo ottenere e vediamo che negli anni non succede nulla. And we take instructions, but they don't seem to work for us. E ascoltiamo delle istruzioni, ma non sembrano funzionare per noi. Then we begin to lose our sense of confidence, first of all, in the Buddha's teachings. Allora cominciamo a perdere questa fiducia, soprattutto negli insegnamenti del Buddha. Even in the teacher, heaven forbid. E anche nell'insegnante, non voglia mai il cielo. Possiamo tradurlo così. Non si è mai detto. But most people suffer from a doubt in themselves. Everybody else can do it, but I can't. La maggior parte delle persone soffrono di un dubbio riguardo a se stessi. Tutti gli altri riescono a farlo, ma io no. So one has to be careful, you know, not to fall into the error of doubt. Quindi bisogna stare molto attenti a non cascare in questo errore del dubbio. And we do that by reflecting on why do we feel this doubt. E questo lo facciamo riflettendo sul perché abbiamo questo dubbio. Now it may be that that we haven't understood the teaching properly and therefore it's not producing the effects. Può darsi che non abbiamo capito bene gli insegnamenti, quindi non sta producendo gli effetti dovuti. Or we're not practicing properly. Oppure non stiamo praticando nel modo giusto. Or it may be that the teacher is not actually giving the right instructions. Oppure potrebbe anche essere che l'insegnante non sta dando le istruzioni giuste. Ah. So there always has to be a certain level of reflection about your practice. E quindi ci deve essere sempre un certo grado di riflessione sulla propria pratica. Mm. And a lot of the problems arise because of expectations, you see. Molti di questi problemi sorgono proprio a causa delle nostre aspettative. Mm. So whenever that doubt arises in any form, you know, don't identify with it, you see. Ogni volta che sorge il dubbio in qualsiasi forma, non identificatevi con esso. Ah, just reflect upon it and make sure that you understand why the doubt has arisen. Ma rifletteteci su e assicuratevi di capire perché è sorto questo dubbio. Ah. But there's another type of faith that arises from the heart. Ma c'è un altro tipo di fede, questo nasce dal cuore. Mm. So Anatta Pindika, who was one of the main supporters of the Buddha, was a rich businessman. Quindi Anatta Pindika, che era un uomo d'affari, un grande sostenitore del Buddha. Even upon somebody telling him about this teacher, seemed to have drawn him immediately towards the Buddha. Anche solo aver sentito parlare di questo grande maestro ebbe questo effetto su di lui, è come se l'avesse attirato verso gli insegnamenti del Buddha. Mm. And it very much depends on a person, really, the devotional aspect of our practice. Mm. Quindi questo aspetto devozionale della pratica dipende molto da dalle persone. If we've been brought up in a religion which has been very devotional. Se siamo cresciuti in un ambiente dove la religione era molto devozionale, It's very difficult to move the heart to a new object of love. È molto difficile spostare il cuore ad un altro oggetto di amore. And I'm not so sure it's absolutely necessary. E non credo neanche che sia così necessario. Just in my own case, I was brought up a Catholic. Nel mio caso io sono cresciuto come cattolico, in un ambiente cattolico. Mm, so my connection with Jesus was very, very strong, especially as a teenager. Avevo una fortissima connessione con Gesù, soprattutto da adolescente. Ah. Afterwards, when I left Catholicism and became a very, what would you say, self-confident existentialist. Poi quando ho abbandonato il cattolicesimo sono diventato un esistenzialista molto sicuro di sé. Yeah. Convinto, then, diciamo. Sì, and then when I came to the Buddhist practice, it was only really from a therapeutic and insight point of view. E quando mi sono avvicinato al buddismo è stato più da una prospettiva più terapeutica, therapeutic and therapeutic and an insight, you know, sì, è più intellectual come, and an insight point of view. Sì, quindi un punto di vista più dell'insight, cioè dell'intuizione. Mm. But then after about 10 years or so, I just felt this lack of heart in the practice. Ma dopo una decina d'anni ho proprio sentito questa mancanza di cuore nella mia pratica. And this happens to a lot of people. E questo succede a molti. And often what they do is they go back to the church and they go there for their heart and then come to Buddhism for the insight. Mm. E questo succede a molte persone. Cosa fanno? Loro tornano alla loro chiesa per questo aspetto più di cuore e poi vanno, si rivolgono al buddismo invece per l'aspetto dell'insight, della conoscenza. I think this is particularly true of Theravada and maybe Zen. Questo è particolarmente vero nel Theravada e nello Zen. Which don't have a very, what can we say, it's not like, say, Tibetan Buddhism, which has so much devotion involved in its practice. Non sono tanto come quello tibetano, che invece è composto di molti aspetti devozionali, no, nella loro pratica. Mm. I heard Tibetan Buddhism described as Catholicism on acid. On acid? Like, yeah, LSD. Ho sentito questa descrizione del buddismo tibetano come un cattolicesimo in uno stato però di acido, di LSD praticamente. Come se fossero sotto l'effetto dell'LSD. Yeah. So So I then began to do certain practices which connected my heart to the Buddha himself, to this historical personage, you know. Quindi ho cominciato a fare delle pratiche che mi potessero connettere il mio cuore con il Buddha, con questa figura storica del Buddha. And what I felt while I was doing that was that I was betraying Jesus. E mentre lo stavo facendo, quello che sentivo era come se stessi tradendo Gesù. Ah, so I had to go through this period of not denying Jesus and yet bringing the Buddha into my heart. E quindi ho attraversato questo periodo in cui stavo cercando di non negare Gesù, però allo stesso tempo stavo portando il Buddha dentro il mio cuore. And it took a long time, 5, 6, 7 years. Ci è voluto un po' di tempo, 5, 6, 7 anni. Because these conditionings are very deep, huh? They go deep into us, they go from childhood. Questi sono condizionamenti molto profondi che cominciano già nell'infanzia. So now I have a statue and a picture, one of the Buddha and one of Jesus, and then I feel better. Adesso ho due immagini, una statua del Buddha e un'immagine del Cristo, così mi sento meglio. So just in case you come across that problem, really I don't think it particularly matters. Solo nel caso in cui voi aveste questo problema, secondo me non ha una grande importanza. It seems that people who devotionally remain Christian and practice remain Buddhist are doing very fine. Pare che le persone che sul piano devozionale rimangono cristiani, però sul piano della pratica sono dei buddisti, vanno benissimo. Ah, funziona. Enough of faith. Enough about faith. E quindi basta, chiudiamo qui per quanto riguarda la fede. Cambiamo argomento. So now the next two things are this concentration and effort. E quindi gli altri due fattori sono questi della concentrazione e dello sforzo. The paradox is that concentration is best developed in a calm way. Il paradosso è che la concentrazione si sviluppa meglio in un modo calmo. Often because of school and study we have this idea of concentration being really forced. A volte a causa della scuola o degli studi abbiamo questa idea che la concentrazione debba essere qualcosa di forzato. But actually if you just put your attention on the breath with the intention, so you put the attention on the breath with the intention of feeling calm, that's all, and the breath will calm you. Però in realtà se voi mettete semplicemente l'attenzione sul respiro con l'intenzione di calmarvi, succede ed è sufficiente questo. And so there's not that much effort needed. E quindi questo non richiede un grosso sforzo. What's needed is an effort which is committed. Quello che serve è uno sforzo impegnato. And a constant level of commitment. E che questo impegno sia costante, un livello costante di impegno. So it's no good, for instance, practicing 1 hour very well and then the next time you do it in a lazy fashion. Quindi non funziona se praticate un'ora molto bene e poi un'altra ora in maniera molto pigra. So we have to be very careful with this Pali word which we translate as effort or force. Quindi dobbiamo stare molto attenti con questa parola in Pali che spesso traduciamo come sforzo, come forza. It's more diligence. Perché ha più a che vedere con la diligenza. Essere diligenti. In fact, that is one of the favorite words of the Buddha. In realtà, questa era proprio una delle parole preferite dal Buddha. It's one of his last two words. Ed era proprio una delle sue ultime due parole. Ce l'abbiamo. Appamado samvarita. Work diligently for your liberation. Diceva proprio, quando alla fine della sua vita, disse proprio, lavorate diligentemente per la vostra liberazione. If the concentration, however, becomes very strong, but the effort supporting it is weak, then we fall into oblivion. Se la concentrazione però è molto forte, ma lo sforzo è debole, ecco che cadiamo in uno stato di oblio. Ah, but this is not quite the same as sleep. Ma non è lo stesso del sonno. Ah, because the meditator, if you see the meditator, you see, they look really wonderful. Perché se osservate i meditanti, beh, sembrano meravigliosi. Ah, they look real, like really good meditators. Sembrano proprio degli ottimi meditanti. Mm. But they're not there. Ma non ci sono. No, they've gone. Sono andati. And the length of your and the length in which they're not there is dependent upon the strength of that concentration. La durata di tempo in cui loro non sono presenti dipende proprio dalla forza della loro concentrazione. There's a tale from the Hindu tradition. C'è un racconto dalla tradizione induista. Where a master asks for some water. Il maestro chiede dell'acqua. The guru, and then he goes into that state. E poi entra in questo stato. For 10 years. per 10 anni. Ah. And when he wakes up, he says, "Where's the water?" E poi quando si sveglia dice, "Ma l'acqua dov'è?" So you can see that nothing's happened in 10 years. Quindi vedete che non è successo nulla in 10 anni. So it's not so dangerous in a week retreat, although it may happen towards the end. But in any long retreat, if that happens, then you have to reflect upon that, and it's just a bit of lack of effort. Quindi non dovrebbe succedere in un ritiro di una settimana, però in un ritiro più lungo può capitare, e in questo caso sappiate che si tratta di una mancanza di sforzo. On the other hand, if the concentration is weak but the effort is too strong, then of course you get restlessness. Al contrario, se la concentrazione è debole e lo sforzo è troppo forte, ecco che subentra l'agitazione, l'irrequietezza. So, as we move deeper into the retreat, it's not always restlessness coming from the mind which is the problem, but the actual practice. Quindi man mano che ci addentriamo nel ritiro, a volte questa irrequietezza non dipende tanto dalla mente, ma è legato alla pratica stessa. So again, I always remind you to reflect upon what's happening. You can do that any time during a sitting. E quindi io vi invito proprio a riflettere su quello che vi sta succedendo. Potete farlo in qualsiasi momento durante la seduta. And then we have the twins of interest and calmness. E poi abbiamo l'altra coppia, che è l'interesse e la calma. You'll sometimes see the word PT translated as joy. When you read this in the books. A volte trovate questa parola piti nei libri, che è tradotta come gioia. But piti just means any form of happiness. Piti significa una qualsiasi forma di felicità. And it's used also for the happiness that you experience when you practice these absorption states. Si riferisce anche a quella forma di felicità che si sperimenta quando si raggiungono gli stati di assorbimento. So if you practice the metta that we do in the evening, then the heart begins to glow. E se praticate la metta così come la facciamo la sera, il cuore comincia a risplendere. So this is also called piti. Anche questo si può chiamare piti. But in the factors of enlightenment or awakening, the PT here refers specifically to the joy of interest. Ma nei fattori di illuminazione, PT si riferisce alla gioia che deriva dall'interesse. So just now, just think of what you're particularly interested in your life. Quindi, what you're interested in doing. Pensate a quello che vi interessa di più nella vostra vita, quello che vi interessa fare. Ah. And you'll see it's a joyful state, isn't it? Vedete che è uno stato gioioso. Ah, sì. So that joyful state has a problem, because if it gets too joyful, we're moving again towards excitement. Quindi questo stato gioioso è un pericolo, perché se diventa troppo gioioso andiamo verso l'eccitazione. So while you're meditating, you see, and then suddenly something something happens which you find very interesting. Allora state meditando e poi improvvisamente succede qualcosa che trovate molto interessante. And you think that any moment now there will be this explosion into Nirvana. E pensate che adesso da un momento all'altro potrebbe arrivare questa esplosione ed entrerò nel Nirvana. And of course it disappears, it destroys. Naturalmente poi sparisce, si distrugge. So this is, you have to be careful. So that's what the calmness does, it keeps it calm. Dovete stare attenti, questa è la funzione della calma, no? Che vi mantiene calmi. So the calmness, of course, if it overreaches the interest, then again you start falling asleep. Però la calma, se diventa più forte dell'interesse, anche qui allora è pericoloso perché potreste cadere nella sonnolenza. So it's all very dodgy, very, very difficult. È tutto molto, molto difficile, molto, molto... These are, can we say, these are just refinements which you may come across when you meditate, that's all. Quindi bisogna praticamente equilibrare, quindi raffinare, no, i fattori, e queste sono praticamente delle esperienze che potreste incontrare durante la vostra pratica. But as you'll see, the Buddha makes it very simple for us. Ma come vedete il Buddha ce lo rende molto semplice. And the last two pairs are equanimity and the investigation of the Dharma. L'ultima coppia è l'equanimità e l'investigazione del Dhamma. So now equanimity, remember, is this quality of not coming from a position of I know or I'm sure. Ricordate che l'equanimità è il partire da questa posizione del io non so o io non sono sicuro. Ah, so you're coming always with what Zen calls beginner's mind. E quindi l'atteggiamento è sempre quello che nello Zen si chiama la mente del principiante. Ah, so we try to approach the Dharma without any sense of wanting to see something. Quindi ci avviciniamo al Dhamma senza questo senso del voler qualcosa, voler raggiungere qualcosa, ottenere qualcosa. Yes, see, there's a subtle difference between being interested in something and wanting something to give you something. C'è una sottile differenza tra l'essere interessati a qualcosa e il volere che quel qualcosa ti dia qualcosa in cambio. Ah, you see. And that's when it becomes an achieving thing, you see. Perché lì diventa una questione più di voler ottenere qualcosa. Nah, so these two are very, very subtle difference there. Anche qui c'è una sottile differenza. So we have to go to it with, as always, the mind of a child, you see. E di nuovo dobbiamo avvicinarci all'esperienza con la mente di un bambino. I always find the image of that child looking at something. Always a good starting point. Io trovo sempre questa immagine di quel bambino che sta osservando qualcosa con interesse come un buon punto di partenza. Ah, sì. So there's no aversion, there's no prejudice, there's no preference, you see. Non c'è non c'è avversione, non c'è preferenza, non c'è nessun pregiudizio. Ah, there's no fear. Non c'è paura. Ah. Now, when we say that, remember, if fear arises, then that's what we investigate. Però, se la dovesse sorgere, questa paura è quello l'oggetto che dobbiamo investigare. Ah. And we're investigating, in our practice, the three characteristics of existence. E quello che noi stiamo investigando nella nostra pratica sono le tre caratteristiche dell'esistenza. Ah. So, in the second discourse, where the Buddha is... talking about his understanding that we of not self. Sul secondo discorso dove il Buddha spiega ciò che lui ha capito riguardo al non sé. He starts off by asking, do you have any absolute control over this psychophysical organism? Allora lui comincia chiedendo, ma hai tu hai un assoluto controllo su questo questo organismo psicofisico? Ah. When you're driving in a car, and your attention is on the driving, you do get the feeling that you're in complete control of the car. Quando state guidando e la vostra attenzione è proprio sull'atto del guidare, voi avete l'impressione di essere in controllo. True. Vero? Vero? See? And then as you're going along, you see, a wheel drops off. E poi mentre state guidando perdete una gomma. And then you realize, oh, I'm not in complete control. Poi vi rendete conto di non essere in completo controllo. So it's the same with the body. We feel that we, because we can move it around and do things with it, that we have control over it. La stessa cosa vale per il corpo. Il fatto che noi possiamo muoverlo di qua e di là e possiamo farci delle cose con il nostro corpo, questo ci dà l'idea di avere il pieno controllo di esso. And then one day you're walking along and your leg drops off. E poi un giorno stai camminando ed ecco che perdi una gamba. Then you think, well, all my life I'll have to hop. E allora pensate, adesso per tutta la vita dovrò saltellare. He's asking us to investigate what is our relationship to this body. E quindi il Buddha ci invita a chiederci qual è la nostra relazione con questo corpo. The body is profoundly amazing. Il corpo è incredibilmente, no, è profondamente incredibile. If you read what we now know of the biology of the body, it is absolutely stupendous. It's amazing. Se leggete quello che adesso si conosce della biologia del corpo, beh, è una cosa stupefacente. 10% of it is foreign bodies, bacteria and all that. Il 10% è composto di corpi estranei, batteri, eccetera, cose di quel genere. The pupil of the eye changes, that's the bit of the front, changes itself every week. La pupilla, che è la parte anteriore dell'occhio, cambia ogni settimana. Every week. Every week you're looking through a different pupil, or whatever it is. Ogni settimana voi guardate il mondo attraverso una pupilla diversa. Have you any idea at this moment what your liver is doing? In questo momento avete un'idea di cosa sta facendo il vostro fegato? No. Do you, if you look at your finger, do you know what it is to be a cell in your body? Se guardate il vostro dito, potete immaginare come ci si senta ad essere una cellula nel vostro corpo? Have you ever experienced yourself as a red blood corpuscle? Avete mai avuto questa esperienza di voi stessi come un globulo rosso? So as you begin to observe the body and you find this position within yourself of the observer, man mano che osservate il vostro corpo e trovate questa posizione, no, di voi stessi come osservatori, You may have a rather frightening experience. Potreste avere un'esperienza inquietante, un po' paurosa. Of being an alien inside your own body. Quella di essere un alieno, un estraneo dentro il vostro corpo. At this point you have to do lots of metta. A questo punto dovete fare molta metta. And re-engage with the body. E rimettervi in gioco con il vostro corpo. Non engage in quel senso lì. Come? Ricontattare. Rientrare nel vostro corpo, insomma. So that's he says, what control have you got over the body's health, over aging, over death? I mean, these are the three. Quindi il Buddha chiede che controllo avete sul vostro corpo in termini di invecchiamento, malattia e morte. Questi sono i tre aspetti. And then he asks us to see. His questions is. Is there anything in the body that is permanent? E poi l'altra domanda che fa il Buddha è: ma c'è qualcosa nel corpo che è permanente? is everything that we are, everything, see, everything we experience, is it arising and passing away? Qualunque cosa che sperimentiamo, qualunque cosa sta sorgendo e svanendo. Ah, see? And the five companions who've now listening to him as a teacher say, no, there's nothing that doesn't arise and pass away. E i suoi cinque compagni, che adesso lo stanno riconoscendo come maestro, rispondono, no, non esiste nulla che non sorga e passi. And then he asks, well, is this satisfying or unsatisfying? E poi l'altra domanda che gli fa, ma tutto questo è soddisfacente o non soddisfacente? And the response is, no, it's not satisfying. E la risposta è, no, questo non è soddisfacente. Ah, because we search for something which is a permanent happiness. Perché noi stiamo cercando qualcosa che sia una felicità permanente. Sì. So, when we are inside ourselves, observing this heart, this body, heart and mind in process. Quando siamo dentro di noi stessi e stiamo osservando questo corpo, mente e cuore in un processo. These are the sort of background questions that are there in the looking. Queste sono le domande sullo sfondo mentre stiamo osservando. Ah, and It drives us to have the direct experience to actually see for ourselves that everything really is arising and passing away. E ci porta, ci avvicina alla vera esperienza del vedere che proprio così tutto sorge e passa. Mm. And when it comes to the actual suffering, that is to do with always trying to manipulate the world to make us happy. E per quanto riguarda l'insegnamento sulla sofferenza, questo ha a che vedere con il tentativo continuo di manipolare le cose di modo che ci portino felicità. Mm. So in the sitting, some discomfort, we want to move. Quindi nella seduta c'è un po' di disagio, ecco, che vogliamo subito spostarci. Suddenly we find ourselves in a sort of interesting mental thought and we want to continue it. Improvvisamente ci troviamo in questo pensiero interessante a livello della mente e vogliamo continuare a pensarlo. Mm. So it's catching how the process of becoming is constantly arising and passing away. Quindi si tratta di cogliere come questo processo del continuo divenire sta funzionando. So, these are the factors and the enlightenment factors. The factors and the faculties. Sì. Allora, queste sono le cinque facoltà spirituali e i sette fattori di illuminazione. In Zen, I didn't have this problem. Nello Zen non avevo questo problema. But in Theravada there are four of these, ten of those, seven of them, and it's just. Nel Theravada ci sono tutte queste liste, quattro di questi, cinque degli altri, sette degli altri ancora. Zen was very simple. Lo Zen era molto semplice. Now, what the Buddha says is that when awareness is established, all the other factors are there in balance. Quello che il Buddha ci dice è che quando è ben stabilizzata la consapevolezza, tutti gli altri fattori sono in equilibrio. Ah, so this makes it very easy for us, you see. E quindi questo ci rende il tutto molto facile. Ah, so in other words, we have to know what this right awareness is. In altre parole, dobbiamo sapere cos'è questa retta consapevolezza. Mm. So now, if you remember the first talk where we discussed what right awareness was and the image of the child. Adesso, se vi ricordate, il mio primo discorso dove abbiamo parlato di cos'era la giusta consapevolezza, vi ho presentato questa immagine del bambino. Mm. So when the child is looking at something with the jaw dropped and all that, the six factors are there. Mm. Quindi quando il bambino è lì che osserva questo fenomeno con la mandibola che gli casca, tutti gli altri sei fattori sono presenti. The seventh one, investigating the Dharma, is not there. Quello che non c'è è l'investigazione del Dhamma. So the child knows a lot about beetles, but nothing about the process of liberation. E quindi il bambino saprà tutto sullo scarafaggio, ma niente sul processo di liberazione. So these six factors are common to everybody. Questi sei fattori sono comuni a tutti. And in fact, they should be there in honest scientific investigation. E dovrebbero essere presenti in qualsiasi tipo di investigazione scientifica onesta. The distinction is that we're investigating these factors, these characteristics. La differenza sta nel fatto che noi qui stiamo investigando queste caratteristiche universali. Now, we talked about calmness. And well, we've talked about calmness. I mean, that's pretty. Yeah? Abbiamo parlato della calma. So, where are the seven factors of liberation when you're all in agitation? Quindi dove sono questi sette fattori di illuminazione quando siamo agitati? These six factors manifest in the psyche, in the mind and heart. Quindi questi fattori si manifestano nella psiche, nella mente cuore, as a mirror coming from that awareness, come uno specchio che deriva da quella consapevolezza. When you abstract yourself from the body, heart and mind to discover this observation post within yourself, quindi quando riuscite a uscire fuori, sì, da questo complesso di corpo, mente e cuore, e riuscite a vedervi this observation post. Sì, vedervi da questo punto di vista, da questa posizione dell'osservatore. So that you are clearly the observer, the feeler, the one who knows. Quindi siete chiaramente l'osservatore, colui che sente, colui che conosce. All the seven factors of liberation are right there in the looking. Tutti questi sette fattori di illuminazione sono presenti in questa osservazione. Sì, the interest is there. C'è l'interesse. The concentration is there. C'è la concentrazione. The effort is there. Lo sforzo. The calmness is there, the calm looking. La calma. Equanimity, because you're not, there's no thinking. L'equanimità, perché non c'è l'attività del pensiero. See? So that's why the Buddha says, once you have right awareness, all the factors are present within the awareness. Per questo che il Buddha dice, quando c'è la retta consapevolezza, tutti gli altri fattori sono presenti all'interno della consapevolezza. Sì. Ecco. Sì. I can only hope my words have been of some assistance. Posso solo sperare che le mie parole siano state di qualche aiuto. By your careful cultivation of the seven factors of enlightenment. Con la vostra attenta coltivazione dei sette fattori di illuminazione. And the five faculties. And the five spiritual faculties. E lo sviluppo o la coltivazione delle cinque facoltà spirituali. May you be liberated from all suffering sooner rather than later. Che voi possiate essere liberi da ogni forma di sofferenza, prima piuttosto che poi. Sadhu, sadhu, sadhu. Very good. So we can do some walking.